Radio Cooking è lieta di presentare Notti di Sagra. Funghi porcini a Cusano Mutri. Armando Alfei conduce. Guarda Armando, qua qui è un casino, guarda, non so più dove mettere i piedi, qui tutti ballano e suonano strumenti strani. Capisco, ma... I nomi neanche li conosco, e probabilmente loro però conoscono il mio. Senti, ma dove ti... Qui si mangia di tutto e si beve altrettanto. Ho capito, mi sembra ma... piovere vino, anche se ci sono nuvole bianche in cielo. Ho capito, ma... Guarda, oddio. Carlo, che è successo? No, niente, stavo per... Carlo, senti, piuttosto, mi hanno detto che dovrebbe arrivare il cavolfiore Plum, così. Guarda, sono voci di corridoio, ma poco tempo fa un vecchio mi è venuto vicino dicendo non mangiate i funghi perché non sono di qua. Quindi non so neanche come comportarmi di conseguenza. Beh, però senti, ma... ho qui la lista di quello che vendono, diciamo. Ah, ok, perfetto. Guarda, penso che tutti... Allora, abbiamo il menù turistico che prevede due primi a scelta. Bene. Gnocchi con funghi porcini. Perfetto. Riso con funghi porcini e cannelloni. Perfetto, va, fantastico. Un secondo poi a scelta tra un porcellino arrosto ripieno, uno stufato di carne cinghiale e un misto di carne alla brace. Ovviamente il tutto accompagnato da bicchieri di vino a 30 centesimi e un litro e mezzo di vino a 1 euro circa. Comunque quel paese sembra essere andato completamente in delirio. Bambini, vecchi, anziani, giovani, tutti ubriachi. E senti Carlo, credo che la situazione stia degenerando. Sento alle tue spalle parecchio vociare. Guarda, vociare è riduttivo. Io penso si possa parlare proprio di vero e proprio bordello. Carlo, sono costretto a interrompere la trasmissione perché non c'è più nessun ascoltatore e a nessuno se ne frega più un cazzo. Oh! Eluana, dov'è Eluana? Avete appena ascoltato Notti di Sagre. Sì, ma perché non hai le mutande? Eluana! Un momento. Ti abbiamo assunto per professionalità. Ce n'è per tutti. Sì, ma devi coprirti. Come se non Santo ti piacesse. Santo Dio. Stai zitta, basta. Esci. Portatela via, ragazzi. Fuori. Gennaro, portala via. Togli le mani di dosso. Stato fermo. Ti faccio venire a prendere dai cani. Menela via fuori. Menela via fuori a sta zoppa. Gennaro, sono rotto cazzo, che rotto cosa? Hanno fatto nata a voto, insalata, rucola e pucchiacchel. Nata a voto. E vrim. Ah, va, ciao, è frenuto aiutato, ciao.